Pronto? Sì, pronto? Ciao. Sì, ciao. E appunto noi abbiamo un po' introdotto su quello che è successo insomma questa settimana per quello che sappiamo fin qui a Ponte Galeria, ma insomma la situazione è come dire da allargare anche in quello che sta succedendo in altri CIE, in particolare a Torino, dove fra l'altro insomma è previsto un presidio sotto il CIE sabato prossimo. Sì, sabato alle 4 andiamo lì sotto al CIE con l'impianto, la musica, diversi interventi che raccontano anche situazioni che non sono soltanto di Torino ovviamente, ma anche di altri CIE. Racconteremo sicuramente quello che è successo a Ponte Galeria e anche magari ricorderemo episodi stessi successi a Torino, rivolte, evasioni eccetera, quindi cercheremo di portare un po' questo messaggio a Torino, anche perché ultimamente purtroppo, come spesso succede a periodi, ci sono vari episodi di autolesionismo e quindi insomma il messaggio che vorremmo comunque far passare è di comunque unirsi, cercare di insieme di affrontare i ragazzi che sono dentro la situazione più che singolarmente, appunto con atti di autolesionismo. Quindi è quello che vorremmo far passare soprattutto con il presidio. In questo momento c'è una parte del CIE di Torino nell'area Viola dove i ragazzi sono particolarmente stanchi della situazione, già da diverso tempo in vari momenti si ribellano, salgono sul tetto, bruciano cose. Adesso, almeno da ieri, sicuramente sono in sciopero della fame. E abbiamo anche provato a dirgli se volevano qualcosa da fuori, dei succhi, della frutta, ma proprio vogliono fare uno sciopero totale, non soltanto uno sciopero del vitto del centro. Anche perché le condizioni del centro per mangiare non è soltanto una cosa che riguarda Torino, comunque a Torino non hanno tavoli, non hanno sedie e mangiano quindi nelle camerate sui letti. Per questo e per le condizioni stesse del centro, per i mesi trascorsi, qualcuno ormai è lì anche da 6 mesi, i ragazzi sono messi adesso in sciopero della fame. Ieri, all'inizio di questa protesta, siccome insomma hanno anche fatto diverso casino nell'area, sono stati anche poi gasati, sono stati buttati dei lacrimogeni, anche è arrivato anche l'idrante, insomma c'è stato questo momento qua. E nelle altre aree spesso succede anche che, soprattutto in un'altra area che è l'area blu, spesso i ragazzi anche salgono sul tetto per dimostrare insomma anche la loro stanchezza della situazione, e ci sono anche diversi episodi di resistenza all'espulsione. Uno in particolare c'è stato un paio di settimane fa, all'incirca una ventina di giorni fa, un ragazzo con la compagna praticamente incinta, ma quasi, tant'è che il bambino è nato una settimana fa, con l'inganno è stato portato fuori dall'area e per essere espulso. E lui, quando si è trovato davanti a questa decina di tra poliziotti, alpini eccetera, ha fatto una grandissima resistenza. Per resistere, purtroppo essendo lì da solo, non avendo molti altri mezzi, si è tagliato e comunque grazie a questa resistenza è riuscito a rimanere nel centro e non farsi mandare via. Nello stesso momento diversi solidali sono arrivati sotto, quindi insomma a presidiare il portone da cui sarebbe dovuto uscire, e altri ragazzi in altre aree gli hanno dato solidarietà salendo sul tetto e comunque facendo casino nelle proprie aree. Quindi anche qui la situazione è abbastanza in fermento, direi. Sì, fra l'altro insomma questo episodio che ricordavi è insomma anche molto importante, perché insomma dimostra che poi la resistenza alla deportazione, anche se diciamo con mezzi assolutamente drammatici, insomma come quello di auto imporsi delle ferite, ha portato dei risultati. Sì, di sicuro. Anche un paio di giorni dopo un altro ragazzo è salito anche su un tetto per non farsi portare via. Purtroppo però quel ragazzo poi, come spessissimo fanno, è stato ingannato, quindi chiamato con una scusa fuori, legato e messo sul furgone e portato via. quindi sicuramente poi queste cose succedono. Purtroppo col passare dei giorni magari cala un po' dopo l'attenzione rispetto al fatto che appunto si è subito un tentativo di espulsione, e poi succede questa cosa di che si viene presi alla sprovvista e comunque mandati via. L'episodio, quello invece del ragazzo che si è tagliato, è stato molto significativo per noi, perché comunque come anche forse potrebbe essere evidente, unendo la resistenza dentro con una forte presenza fuori determinata, che comunque in qualche modo tenti, almeno in una maniera il più possibile efficace, tenti di impedire che queste persone vengano portate via, unendo queste cose, insomma, forse si può riuscire ad impedire qualche espulsione. Quindi è sicuramente, quello per noi è stato sicuramente un momento importante. Che ci servirà da lezione, direi anche. Sì, fra l'altro in un momento leggevamo prima una dichiarazione del garante dei detenuti del Lazio, in un momento in cui sulla stampa mainstream queste tematiche sono di fatto scomparse, cioè non si parla più di migrazione in generale, non si parla, e si parla pochissimo, come del resto sempre, dei CIE. Sì, quello che io ho notato in realtà è che quando se ne parla, comunque, anche come mi sembra sia successo adesso per Ponte Galeria, poi le voci che si levano sono sempre voci molto scandalizzate, no? Sull'esistenza di questi centri, su come vengono gestiti. A me sembra che l'informazione poi quando passa in questo senso. Quindi forse io direi che quello che sarebbe più importante, su cui sarebbe più importante impegnarsi, è proprio sul ragionare su come essere veramente efficaci rispetto a questi centri, visto che comunque anche l'informazione dei grandi giornali eccetera spesso denuncia in qualche maniera la situazione reale dei CIE, poi senza nessunissima efficacia ovviamente come informazione, però se chi invece è contro questi posti, chi veramente vuole fare qualcosa, si insomma riuscisse a mettere in campo delle pratiche efficaci, secondo me si potrebbe davvero aggiungere qualcosa alla lotta già dei reclusi che sono già dentro questi posti. Sì, fra l'altro appunto l'articolo da cui prendevamo la dichiarazione del garante dei detenuti del Lazio era un articolo della stampa di Torino, anche se appunto era un articolo che parlava di Ponte Galeria qui a Roma, e in effetti era un articolo che sottolineava insomma le condizioni inumane, come le persone vengono ammassate, il fatto insomma che è una struttura che non è del tutto agibile eccetera. Sì, anche sì, senza sì, ovviamente sì, mettere in discussione l'esistenza del CIE. Infatti sì, io pure volevo dire esatto. Questa cosa che sì, i giornali scrivono scandalizzati, ma scandalizzati di un'istituzione che loro ritengono necessaria, quindi in realtà esatto. È solo sì, migliorare la vita nelle gabbie dei migranti e delle migranti, però insomma non esatto, si mette in discussione esatto. L'istituzione, è proprio da là che si dovrebbe partire, ma è veramente un discorso che non si riesce poco a far passare questo. No, certo, perché comunque nonostante certo gli articoli dicono soltanto che i posti dovrebbero diventare umani, no? Dovrebbero essere veramente posti dove la gente può stare. Il punto secondo me è che l'informazione che passa già dice a tutti quelli che leggono quello che poi noi vorremmo far sapere, no? In qualche modo. E quindi non è più un'informazione che tende a nascondere questo, ma lo dice senza nessuna efficacia, senza nessuna conseguenza, e quindi secondo me sta proprio a noi appunto comunque appunto mettere tutte le energie che abbiamo contro questi posti, visto che nonostante si sappia quello che succeda, poi in realtà non si muove praticamente nulla, quindi direi che ecco, cioè, forse il nostro, come si dice, la controinformazione che potremmo fare su questo in questo momento già la fanno i giornali in qualche maniera, e quindi le nostre energie probabilmente potrebbero essere impiegate nell'aiuto sicuramente ai ragazzi che sono nei centri, nell'aiuto diretto, ecco, più possibile. Sì, in un aiuto diretto e nel, appunto, come dire, portare una solidarietà visibile sotto quelle gabbie, come immagino sia, insomma, l'intenti del presidio che avete organizzato per questo sabato. Sì, sicuramente. Poi in questo momento era un presidio già organizzato da un po', in questo momento in cui c'è questa forte protesta dell'area viola è sicuramente un momento importante, perché i ragazzi poi alla fine si sentono spesso soli, appunto, e quindi fargli sentire che da fuori si sostiene la loro lotta, la loro resistenza è una cosa molto molto importante. Molto importante, sì. E anche portare, appunto, le testimonianze di altre situazioni, insomma, di situazioni in cui poi dentro a dei centri, come è successo a Ponte Galeria, la gente poi si è unita, si è ribellata tutta insieme a una situazione che stava subendo un ragazzo. Insomma, portare questo di messaggio, non la divisione, non la magari. Forse l'inefficacia dei tentativi individuali a volte, ma l'efficacia invece quando i ragazzi poi si mettono tutti insieme e provano insieme magari ad opporsi anche a un'espulsione, ad opporsi a un atto di violenza che c'è nel centro. Insomma, questo sarebbe molto importante da far passare ed è quello che vorremmo fare durante il presidio sicuramente. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, e altrimenti, insomma, ti salutiamo sì. con l'idea, no, insomma, di risentirci appena ci sono notizie. Va bene, d'accordo. Se ci sono delle novità da dentro a Torino, sicuramente ve le faremo sapere. Ok. Per ora ti ringraziamo. Va bene, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.